It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli aleggia ovunque l'incubo della morte, Kappa e Drago aderiscono al pugno nel pollo. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Beh, Kappa, una cosa è certa. Noi siamo chiusi in una fabbrica di polli in piena pandemia di aviaria da un numero imprecisato di notti, anzi di mezzanotte. Bravo, quindi, bravo, perché un riassunto ogni tanto è consigliabile, altrimenti si perde il filo, poi qua dentro al buio. Sì, però non è tanto il riassunto, quello che volevo dirti, Kappa, quanto l'occasione che potrebbe rappresentare per noi il pugno nel pollo. Il pugno nel pollo, il movimento di lotta armata fondato dal pollo in sbattimento. Ma certo, certo, se riuscirà a far paura al padronato. Ma come parli? Noi... Cos'è, Drago? Terroristese, cos'è? Il linguaggio della prassi. Ma Drago, lascia perdere. Io eviterei questa deriva violenta. Dai, noi siamo... Oh, noi siamo uomini. Sì, sì, cosa però... ci interessa combattere con e per i polli, dai. Non capisci, non hai la solidarietà necessaria. La prossima volta, Drago, che incontriamo l'amministratore delegato, gli chiediamo di uscire. Ah, così la facciamo finita. Uscire, sì, chiediamo di uscire con lui, sì. È buono quello, lo sai già che cosa risponde tanto. Lui non farà mai niente per farci uscire. L'amministratore delegato è un personaggio ambiguo. Qui non possiamo chiedere l'aiuto di nessuno, Kappa. Solo la rivoluzione può aiutarci. Tieni questi volantini. E cosa ne faccio? Compagno Kappa, mi rallegro per la tua decisione di aiutare la causa del pugno nel pollo. Compagno pollo in sbattimento. Ma che compagno, compagno? Ma cosa compagno, fate? Compagno Kappa, allora... Ragazzi, i primi sequestri lampo hanno avuto un effetto formidabile. Bene. Ne parlano tutti in fabbrica. Sì. E beh, adesso è il momento di gambizzare qualcuno. Ma giusto, pollo in sbattimento. Giusto. Drago, ma rientrate in voi. Ma cosa state facendo? Ma combattiamo per rovesciare l'ordine costituito. Sì, quei bastardi dei padroni. Senti, pollo in sbattimento, tu non sei mai stato contro i padroni. Cosa ti è preso? Cosa ti è successo? Sono in sbattimento, no? Ma vabbè, ma questo si sa, sei sempre in sbattimento. Io sono in sbattimento, duro. E ho detto tutto. Ma cosa? Questo basta e avanza. Già. Qualche conta per me è sfasciare tutto. Dare qualche botta bendata in giro al sistema, senza ideologie, giusto per sfasciare, sì, no? Sì, giusto, giusto, sì, nichilismo, pollo, è giusto. Ma Drago, tu sta zitto. Pollo, tu eri un negoziante di dischi, eri un uomo pacifico. Pacifico. Ti intendevi di rock anni 70, di crowd rock, di post-punk, di progressive, non ti ricordi quei tempi? Quelli sono passatempi borghesi e decadenti. È inutile che rimvanghi il passato del pollo in sbattimento, Kappa, ormai la rivoluzione, ma la Drago, rivoluzione. Quali rimvanghi, quale passato? La lotta armata è inevitabile. Hasta paroxetina sempre. La vita è dura, ti fa paura, alla mattina paroxetina. Inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina paroxetina. Uè pollastri, ho appena ricevuto conferma che abbiamo l'appoggio logistico del colonnello Unghiute. Ci darà soldati e armi. Ma è fantastico. Che fantastico. Compagno pollo in sbattimento, complimenti. L'appoggio logistico del colonnello Unghiute, ti rendi conto? Certo. Ma Unghiute è un pericoloso gorilla in divisa. Giusto così. Come fate a fidarvi di una bestia così? In guerra e guerriglia non si guarda in faccia nessuno. Capito, il nemico è uno solo e tutti gli altri sono amici. Poi, quando avremo ottenuto tutto quello che vogliamo, ma tutto, faremo i conti anche con quelli che ci hanno aiutati. Ma come? Cioè, cosa vuol dire? Cioè, li accusiamo di aver tradito i valori della rivoluzione. E li fucciliamo tutti. Trek, allora, ho finito di scrivere il comunicato. Adesso lo leggo e poi vediamo com'è venuto, Va bene? Il pugno nel pollo è un gruppo insurrezionale composto di polli sbattimento che lottano contro la loro condizione di sbattimento. Questo nell'ottica di una più generale ridistribuzione del reddito e dei diritti. Per macellato, la famiglia dovrà ricevere un indennizzo da concordare con il patronato. La macellazione di un capo famiglia provoca uno sbattimento X da quantificare scientificamente. A ogni livello di sbattimento corrisponderà un indennizzo adeguato. L'obiettivo finale del pugno nel pollo è la totale liberazione della fabbrica e la conseguente autogestione. Saranno infatti i polli a gestire la fabbrica come meglio crederanno. Sì, pollo, belle parole, belle parole. Belle parole, belle parole, compagno pollo in sbattimento. Bravo, complimenti. Dove sono però i polli che ti aiuteranno? Perché qui se parli di movimento ci andranno dei polli, siamo solo noi. Bravo, bella domanda. Devo ancora spargere la voce, no? Intanto abbiamo Tarek. Vabbè, allora se avete Tarek. Salve amici, lotta di classe, rivoluzione e collettivismo. Ma come? Ma non era Speck, Brie e Patedolino? No, adesso Tarek è stato rieducato secondo i dettami della rivoluzione culturale di Mao. Cioè? Gli ho dato tante di quelle bastonate che si è dimenticato Speck, Brie e Pate d'Olive. E adesso invece di dire quelle tre robe lì ha imparato a dire lotta di classe, rivoluzione e collettivismo. Sì, vabbè. Intanto lui però pensa a Speck, Brie e Pate d'Olive. Gli ho detto che da oggi quelle tre robe lì si chiamano così. Cioè collettivismo e Pate d'Olive. E Pate d'Olive, infatti è quello che dice sempre più spesso. Collettivismo. Ma in giro, collettivismo, collettivismo. E Pate d'Olive. Ma ehi, non ci sono mai state le bastonate? Ma io ti rompo, con sto Pate d'Olive. Ti ho detto che non si dice più Pate d'Olive, si dice collettivismo. Adesso ti do una roncolata. Aia. Aia, devi pensarci prima. Aspetta, ti va bene che sono al telefono? Se no ne beccavi ancora, capito? Pronto? Pronto? Pronto? Qui pugno nel pollo. Cos'è sto pugno nel pollo? Pugno nel pollo. È un movimento. Veniamo al sodo, veniamo al sodo. Io qui sento parlare di cose strane, di volantini, di sequestri lampo, ciclostili, gambizzazioni, rivoluzione. Qualche rivendicazione ce l'abbiamo noi, adesso poi rivoluzione, gambizzazioni, magari no. Però quindi? Qui c'è qualcosa che non va. No, qui c'è molto che non va. Non va per noi però. Per voi va bene. Questa è una questione di punti di vista. Punti di vista, capito. Allora, stabiliamo un principio. Vediamo se riusciamo a capirci su una cosa. Cosa? Siamo molto distanti. Abbiamo punti di vista molto distanti. Per forza. Tentiamo una mediazione. Cerchiamo di metterci d'accordo. No, il pugno del pollo non media, eh. Come non media? No, non media. Non è prevista una mediazione. Allora sarà una battaglia sanguinaria. È il pugno del pollo duro. Qui si vedranno zampe volare dappertutto. Oh, calma, che già si vedono tutti i giorni le zampe volare. Allora cosa possiamo fare? Qua mi viene un'idea soltanto. Io posso disporre di notevoli quantità di paroxetina. Paroxetina. Allora? Ho detto la parola magica? Insomma, diciamo che c'è una base da cui partire per discorrere. Lei ha detto paroxetino, capito bene? Sì. Le pastigline, quelle che prendiamo la mattina. Esatto. E quindi lei ha la chiave del, come dire, Pugno nel pollo, diamoci del tu. Ah, bene. Cioè, posso anch'io? Sì, certo, dai. Cioè, ti do del tu? Sì, dammi del tu. Ok, questo mi fa piacere. No, ma torniamo a bomba. Bomba nel senso di paroxetina, voglio dire. Vabbè, dai, quanta ve ne serve? No, quanta te ne serve? A me. L'importante è che ce l'abbia io, Ma tu quanta ne hai bisogno? Io prendo una pastiglia al giorno, almeno... Voglio dire, con 5 o 6 io mi metto tranquillo. Sto tranquillo io e stai tranquillo tu. Non so se ci siamo capiti. Dai, stiamo tutti tranquilli. Vabbè, dai. 6 pastiglie? No, 6 mesi. 6 mesi di cosa? Di galera? Di paroxetina. E vabbè, dopo? E poi acqua in bocca. Ah, ok. Cioè, 6 mesi su carta, sull'accordo firmato. Poi dopo io posso contare su di te. Sì, dai. Senti, ma se puoi contare su di me, però io posso contare su di te, giusto? Togli sto pugno dal pollo e andiamo avanti. Vabbè, così può andare. Senti un po', io tengo buono il vertice, tu tieni buona la base, adesso devo andare in palestra, ti saluto. Che cosa succederà adesso? Il pollo in sbattimento ha davvero tradito i suoi compagni di lotta? Aspettate fino a domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo infamantissimo allestimento de... La fabbrica di polli. Fatelo dire. Collettivismo. Bar. Yeah.